ho vista col tuo nome, o almeno metà di te. Ti ho chiesto l'autorizzazione con un motivo importante per me. Ti ho vista sul web che facevi le faccine con la B. Ti ho vista sul web che offrivi e accettavi cose con me. Ti ho vista sul web che portavi avanti la tradizione delle riviste mani, solo perché lo senti, te ne vai via da me, solo perché lo senti, non vuol dire che sei.